Allora, l'idea è partita da me e da mia sorella Elena. Abbiamo avuto l'idea mesi fa, dato che si tratta di un problema molto pressante, ci pensavamo da un po' e l'abbiamo potuto concretizzare solo ultimamente. Quindi abbiamo costituito una rete di persone interessate, diciamo, a condurre questa battaglia e dopo la lettera aperta che abbiamo scritto al governo Gentiloni, abbiamo ricevuto varie risposte da diverse regioni al nostro appello di appunto organizzare delle manifestazioni sincronizzate. Quindi voi chiedete più fondi ovviamente per avere questi diritti, i vostri diritti civili. E appunto mi chiedevo se i fondi ci sono stati finora e adesso non sono più sufficienti oppure se non lo sono mai stati sufficienti. Noi sì, ci concentriamo appunto sul diritto all'assistenza personale per le persone che ne hanno bisogno. Per quanto riguarda i fondi, la situazione è molto diversificata, come spesso accade in Italia, di regione in regione. E potremmo riassumere così, cioè in alcune regioni c'è poco, in altre non c'è nulla e in altre magari c'è abbastanza, però solamente per alcune persone che rientrano in determinati progetti. Quindi ancora spesso il lavoro di assistenza viene svolto per lo più dalle famiglie o magari dai partner delle persone disabili che, come spesso accade, appunto svolgono questo ruolo di ammortizzatore sociale e quindi si vengono a creare situazioni di dipendenza reciproca, spesso dannosa. E poi c'è tutta la realtà delle case di cura, dell'RSA, dove le persone vanno necessariamente se non hanno più il supporto della famiglia o dei partner o degli amici. Ed in quali regioni non c'è nulla? In quali regioni? Ma in generale potremmo dire che le regioni del nord hanno una situazione migliore, quelle più del sud magari come la Calabria mi viene in mente, c'è davvero poco, e magari le regioni del centro sono una via di mezzo, poi con alcune situazioni particolari migliori di altre. Per esempio la Puglia, diciamo, è un'isola un po' più felice all'interno delle regioni del sud, così anche la Sicilia ultimamente, però comunque non è sufficiente. E mi aveva colpito nella vostra lettera quello che scrivevate a proposito dell'Italia che pensa di essere nel Medioevo e mi chiedevo perché dal vostro punto di vista è così e sì, cosa notate rispetto ad altri stati europei e del mondo. Sicuramente molti paesi europei sono avanti di parecchi anni rispetto a noi, sia nelle politiche sociali che proprio a livello culturale, vabbè, soprattutto i paesi anglosassoni, scandinavi, dove è presente proprio una cultura dei diritti e quindi anche una cultura della disabilità diversa, più aggiornata, più moderna. Invece da noi spesso i discorsi sulla disabilità sono attraversati da pietismo e assistenzialismo, insomma. L'assistenza personale autogestita, che è il diritto che rivendichiamo con queste manifestazioni, è una realtà ben avviata in questi paesi scandinavi, ma anche Germania, Inghilterra, anche in Irlanda, per esempio. Dopo le giornate del 3, del 4 e del 5, quindi dopo questo weekend, cosa pensate di fare? Come pensate di proseguire la vostra lotta? Sì, noi innanzitutto vogliamo, appunto, cioè l'idea di queste manifestazioni è di attirare attenzione nei confronti del problema. Vogliamo che esca alla luce, che esca fuori dai circoli della disabilità, diciamo, perché è importante proprio informare l'opinione pubblica di questa ingiustizia, insomma, che sta avendo luogo, cioè questa questione proprio di diritti civili. E infatti chi non è direttamente interessato dal problema non sa nulla, sa poco o nulla di queste questioni. Noi, cioè, la nostra intenzione è di continuare a mantenere i riflettori accesi su questa questione, continuare a manifestare e possiamo farlo appunto solo con l'appoggio di chi non vive in prima persona il problema, perché quando si tratta di battaglie per i diritti è necessario che partecipi attivamente, insomma, anche chi non è direttamente interessato dal problema.